edifici adornati, non una periferia, splende il sole ancora le sette. Sei ragazzo piange, non è mica colpa mia, splende il sole, sono ancora le sette. Si sale e si scende in percorso Vittorio Emanuele. Si scende e si sale in percorso Vittorio Emanuele. I bambini giocano a essere grandi, un vecchietto ride ai santi. Non c'è razza che tenga né un'idea di prepotenza, splende il sole, sono ancora le sette. Si sale in percorso Vittorio Emanuele. La tabaccheria aspetta le sigarette, i musei con le porte aperte nella zona senza stranezze. Via Vittorio Emanuele non mente. Sessuali donne senza cretini, trovaci clown, uomini virili, donne con bambini, con bambini. Scrive fine.